Oh bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta.